perfetto giorno di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti. Questo è il podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, Simone Spezia. E qua, come sempre, cerchiamo di mettere un po' di ordine nelle notizie di questa giornata, di farvi riascoltare qualcosa di quello che è andato in onda tra le 13 e le 14 nello spazio ordinario, per così dire, della trasmissione, e ogni giorno cerchiamo anche di farvi sentire qualcosa in più, se possiamo. Se avete critiche, riflessioni, idee, tutto quello che volete, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e se volete anche il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, quindi quando volete potete scrivermi anche là, naturalmente. È una giornata, quella di oggi, ancora una volta dominata dalla politica, non senza naturalmente qualche accenno di retorica, qualche accenno di divisioni interne ai partiti che forse lasciano un po' il tempo che trovano, però insomma la cronaca ci consegna anche questo e qualche spunto di riflessione sul futuro del governo e sulle riforme. Naturalmente si impone quello che sta succedendo nella vicenda processuale di Silvio Berlusconi, ossia il fatto che gli è stata ridotta la pena per non di molto, in realtà di 45 giorni, però gli è stata ridotta la pena. Dunque partiamo proprio da qua con Anna Rita D'Ambrosio. Il 27 gennaio era arrivato il parere negativo dell'ufficio esecuzione della Procura di Milano per la richiesta dei legali di Berlusconi, appunto, di anticipare di 45 giorni il termine dell'affidamento in prova ai servizi sociali del Cavaliere. Invece oggi c'è stato un ribaltamento. In realtà il parere espresso lo scorso 27 gennaio non era vincolante, però era un parere che derivava dalle parole pronunciate da Berlusconi contro i giudici. Oggi invece Beatrice Crosti, che è il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano e titolare del fascicolo relativo all'affidamento in prova dei servizi sociali del leader di Forza Italia, ha dato parere favorevole. Dunque Berlusconi termina i servizi sociali 45 giorni prima, l'8 marzo, come dicevi tu. È una buona notizia per il centrodestra, che ha una fase politica decisamente particolare post elezione del capo dello Stato. Berlusconi avrebbe dovuto terminare il 23 aprile, invece terminerà l'8 marzo con la festa della donna, una giornata anche particolarmente simbolica. La politica vera e propria adesso, dunque, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, avvenuta, come sapete, sabato con una amplissima maggioranza. Un'elezione che, come sapete, sapete anche questo, sta generando più di qualche problema all'interno del centrodestra. Un'elezione che avrà il suo compimento formale nella giornata di domani, quando ci sarà il giuramento. È una cerimonia, tra l'altro, piuttosto affascinante, un vero e proprio rituale repubblicano, con una serie di fatti che avvengono nel corso della giornata e dentro Roma che vale la pena raccontare. Lo ha fatto Alessandra Schepisi. Campagna festa, salve di cannone, onori militari, sarà un cerimoniale antico, un vero e proprio rito della Repubblica, quello che si ripete domani per il 12° inquilino del Colle. Sergio Mattarella alle 9:15 verrà prelevato dalla sua abitazione, la foresteria della Consulta, dal segretario generale della Camera. Arriverà a Montecitorio scortato da 18 carabinieri, mentre durante il tragitto suonerà ininterrottamente la campana della Camera dei Deputati. Giuramento alle 10 in punto, e verrà accompagnato il giuramento da 21 colpi a salve sparati dal cannone del Gianicolo. E naturalmente con il giuramento Mattarella entrerà nel pieno dei suoi poteri. Subito dopo pronuncerà il suo primo discorso da presidente di fronte alle Camere riunite, un intervento che dovrebbe essere asciutto, non eccessivamente lungo, incentrato sui temi già anticipati in quella frase pronunciata il giorno della sua elezione, cioè difficoltà, speranze, unità del paese, ma spazio sarà dedicato anche al tema delle riforme economiche e istituzionali. Terminato il discorso, Mattarella nel cortile di Montecitorio passerà in rassegna il reparto di onore schierato con bandiera tricolore e bande, e poi l'altare della patria con l'omaggio al vittoriano, e al termine del quale, al termine di questa cerimonia, verrà presa in consegna dai corazzieri, accompagnata al Quirinale a bordo della Lancia Flaminia 335, l'auto decappottabile a 7 posti che per tradizione viene usata in questa occasione per la parata del 2 giugno, ma non è detto che il nuovo presidente cliente possa invece rinunciarvi per ragioni di sobrietà, optando per la sua Panda grigia ormai divenuta famosa. Infine, al Quirinale, gli onori militari, la cerimonia del passaggio di consegne con il presidente Grasso, il saluto del presidente uscente Napolitano, il rinfresco nel Salone delle Feste, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e, come dicevamo, c'è anche Silvio Berlusconi. A te, Simone. Confusione nel centrodestra da una parte, canti di vittoria dall'altra da parte del Partito Democratico e un Matteo Renzi più che mai deciso ad andare avanti sulle riforme, con o senza Forza Italia. Sentiamo la cronaca parlamentare di Vincenzo Miglietta. Sembra quasi archiviare già l'elezione del Presidente della Repubblica per proiettarsi invece verso i prossimi appuntamenti parlamentari legati alle riforme. L'elezione del Capo dello Stato, spiega Renzi, mette il turbo, non rallenta le riforme, avanti tutta. Io non passo i prossimi mesi a parlare con i partitini, ma tra gli italiani, per rimettere in moto il Paese. Altro capitolo, le tensioni nel centrodestra. Renzi dice la sua su Forza Italia, nuovo centrodestra spaccati dopo l'elezione di Mattarella e alle prese in queste ore con le verifiche interne, riforme e governo a rischio. Allora partiamo da Forza Italia. La Camera, dice allora Renzi, Forza Italia non è importante dal punto di vista numerico, ma come idea di riforme condivise, noi si va avanti comunque, se non vogliono andiamo avanti anche senza. Quindi il nuovo centrodestra. Oggi bisogna lavorare con calma, chi ha da leccarsi le ferite lo faccia, ma non c'è bisogno di discussioni polemiche. Abbiamo eletto un galantuomo, spiega ancora Renzi, il giorno dopo si deve rilanciare. Le discussioni fanno vecchia politica, dice il Presidente del Consiglio, siamo qui a governare l'Italia, non a compattare le alleanze interne. Infine la norma del 3% sul fisco, Berlusconi non c'entra niente, ma bisogna dividere tra gli evasori e chi fa errori in buona fede. Di tutto questo abbiamo parlato anche col vice segretario del PD, Deborah Serracchiani, alla quale la prima domanda che abbiamo fatto è: ma i numeri per fare le riforme da soli ce li avete oppure no? Ma sì, guardi, lo ha detto ieri anche con chiarezza il ministro Boschi e lo ha ripetuto oggi il Presidente del Consiglio. Noi i numeri li abbiamo, è chiaro però che abbiamo avviato un percorso di riforme insieme al nuovo centrodestra, insieme a Forza Italia, e vorremmo portarlo avanti, anche perché insomma non abbiamo violato alcun patto e mi pare che ci sia nell'ordine delle cose che si rispetti da parte di tutti. Questa è la vostra visione, loro ritengono diversamente, ci sembra di capire da quello che leggiamo in queste ore, che il patto l'abbiate violato, insomma. Qualche incomprensione, ma credo che si risolverà tutto. È convinta che si risolverà tutto? Ma francamente sì, perché guardi, io credo che la politica abbia avuto un grande insegnamento in queste ore, in questi giorni di elezione del Presidente della Repubblica. Avrà visto, credo anche lei, percepito quanto il Paese abbia reagito positivamente a questa elezione, e dietro a questa reazione positiva c'è anche la voglia veramente di avere una politica che finalmente decide e fa le cose. Insomma, ci hanno già detto che vogliono il cambiamento e che vogliono le riforme, ora arretrare su questo percorso che è già stato avviato e che ci ha portato tra l'altro anche alla elezione del Presidente della Repubblica sarebbe veramente ben strano, probabilmente incomprensibile per i nostri cittadini. Se Forza Italia facesse un passo indietro, sareste disposti a provare a ricoinvolgere il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, il Movimento 5 Stelle credo che anche nell'elezione del Presidente della Repubblica abbia fatto la scelta solita dell'irrilevanza, insomma mi pare che non vogliano partecipare alla, così, alla costruzione, insomma, democratica del percorso delle riforme. Ovviamente se cambiano idea saranno i benvenuti, del resto si ricordi che noi abbiamo chiesto a tutti di partecipare al percorso delle riforme, con alcuni ci confrontiamo positivamente, altri non vogliono neppure il confronto, ma insomma spero che capiscano che i tempi dell'Aventino sono ormai lontani. Cambiamo argomento e passiamo all'estero. Iniziamo dalle cronache che riguardano ISIS, dopo la decapitazione di un ostaggio da parte dei terroristi islamici, la decapitazione di un ostaggio giapponese, come sapete un reporter giapponese. Questa uccisione sta generando un ampio dibattito all'interno del paese, all'interno dello stesso Giappone, che da costituzione è rigorosamente contro la guerra. Ebbene, si sta riflettendo anche su una modifica della Costituzione, ma il punto ci spiega bene Paolo Magri, direttore dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, non è solamente questo. Sentiamo. Ci sono due questioni in gioco in Giappone in questo momento, di cui un aspetto tocca la Costituzione, ma è solo un piccolo dettaglio. Quali sono le questioni? La prima è di rivedere la dottrina difesa del Giappone. Il Giappone è fortemente ancorato da dopo la seconda guerra mondiale a una concezione di pacifismo. La proposta di Abe, del governo di Abe, è di passare a quello che lui chiama pacifismo proattivo. Cosa vuol dire concretamente? Che si reinterpreterebbe senza modificarla la Costituzione per permettere, per esempio, la vendita di armi a paesi che ne hanno bisogno, un rafforzamento della difesa per dispute territoriali e quindi anche la possibilità di intervenire in aiuto di alleati. Un aspetto di questa nuova dottrina è anche, ma è considerato da tutti impossibile da realizzare, la modifica della Costituzione, che richiede un referendum obbligatorio e toglierebbe il divieto di guerra per il Giappone. È un'ipotesi molto improbabile perché c'è una maggioranza pacifistica nel paese. La seconda cosa che il Giappone sta rivedendo sempre con Abe è la posizione di neutralità. Il Giappone ha sempre tenuto questa posizione, ha tratto anche grandi vantaggi in passato, si vorrebbe una politica estera più attiva. Entrambe queste due revisioni, quella della neutralità e quella del pacifismo proattivo, con la situazione di questi giorni sono ancora più a rischio, perché in molta parte della popolazione ci sarà un desiderio di isolazionismo, di ritrarsi all'interno del confine nazionale, che è esattamente l'opposto di ciò che chiede Abe. Da un fronte di tensione e di guerra, ossia quello siriano-iracheno, a un altro fronte di tensione e di guerra. Ci riferiamo all'Ucraina. Vi stiamo aggiornando quotidianamente perché effettivamente è una battaglia che si sta svolgendo in sostanza nel cuore dell'Europa e che a volte tendiamo a dimenticare. Ogni giorno bollettini quotidiani ci raccontano di vittime tanto tra i civili quanto tra i soldati e nel frattempo la tensione internazionale continua a farsi sempre più forte con un innesto in queste ore anche da parte degli Stati Uniti. Il punto con Gigi Donelli. La cosa peggiore probabilmente è che tutti i passi dell'escalation vengono compiuti. Quali sono gli ultimi? Gli ultimi sono che da una parte gli Stati Uniti stanno valutando il via libera a un finanziamento di 3 miliardi di dollari per sostenere l'esercito di Kiev, cui fa cui è al contrappunto di una dichiarazione da parte dei leader dei cosiddetti ribelli. Alexander Sakharchenko è il leader appunto delle forze armate, si possono ben definire a questo punto, delle regioni appunto di Donetsk e Lugansk. Ha annunciato che entro 10 giorni partirà la mobilitazione, dice raccoglieremo fino a 100.000 soldati. Ora, l'ipotesi non è affatto fantasiosa, siamo in una regione molto popolata e soprattutto non dimentichiamolo, siamo di fatto in una zona di cuscinetto tra quella che è l'Ucraina controllata da Kiev e i confini russi. E a proposito di Russia, tutto questo naturalmente mentre la cronaca ci informa di nuovi morti civili e militari nelle diverse zone di combattimento, ma dicevo il quadro complessivo si fa davvero via via sempre più drammatico sul fronte del tentativi di disinnescare questa bomba nel cuore dell'Europa orientale, ma non solo, dell'Europa punto e basta. La cancelliera Merkel oggi è in visita a Budapest, ne abbiamo già parlato, il 17 febbraio a Budapest è atteso Putin, sarà la sua prima visita e di fuori di fatto dei confini russi all'interno dello spazio europeo. Ecco, le divisioni all'interno dell'Europa rispetto al modo in cui si contrasta la posizione russa e il sostegno russo ai ribelli fa proprio capo anche a Budapest, quindi Angela Merkel cercherà di spingere gli ungheresi a cambiare una linea attualmente molto filorussa. La cronaca di oggi ci racconta innanzitutto di un nuovo caso di presunta corruzione, perché naturalmente sono solo arresti per il momento, ci dovrà essere tutto quello che sappiamo, però la Guardia di Finanza ha arrestato 11 persone proprio con l'accusa di corruzione, tra questi ci sono funzionari e tecnici che facevano parte del reparto che dà le concessioni edilizie all'interno del Comune di Roma. Ci sono 5 funzionari pubblici, 3 tecnici del comune e 2 ispettori della ASL tra le persone raggiunte dalle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Roma. A 6 imprenditori è stato imposto l'obbligo di presentazione davanti all'autorità giudiziaria. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Dario Fasciano. Omettevano di fare determinati controlli, oppure se ne facevano omettevano di rilevare le violazioni riscontrate, oppure per affidare e quindi assegnare un viatico preferenziale alle pratiche di richiesta di autorizzazione a costruire, pretendevano il pagamento di denaro. Un'operazione, quella di oggi, che si collega a quella dell'8 gennaio scorso, quando furono eseguite 28 misure cautelari per funzionari pubblici, imprenditori e professionisti accusati sempre di corruzione e concussione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le altre questioni di cronaca che troviamo in queste ore riguardano gli effetti del maltempo, gli effetti dannosi del maltempo o dell'incuria del territorio, mettetela come volete naturalmente. Stanno creando particolari problemi le piogge in Calabria e in Campania, in particolare un po' in tutto il sud Italia. Abbiamo sentito il sindaco di Petilia Policastro, siamo in provincia di Crotone, che ci ha raccontato un po' la situazione. Là c'è una frana che minaccia un pezzo del paese, ma prima di ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con lui, sentiamo qual è il quadro attuale e quali sono le previsioni da Filippo Thierry del Servizio Meteo della Protezione Civile. Situazione in generale miglioramento al centro-nord fin dalle prime ore della giornata, si mantengono invece condizioni di instabilità anche spiccate al meridione, in particolare sui versanti tirrenici, sia quelli della penisola, in particolare Campania meridionale, Basilicata, Calabria, sia quelli della Sicilia, con rovesci temporali e precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 600-700 metri, quindi a quote anche di viabilità importante. Sono situazioni che sostanzialmente si esauriranno poi verso la fine della giornata, comunque nel corso della notte. Sì, tra l'altro c'è anche in Liguria un'allerta arrivata proprio dalla Protezione Civile per neve. Lei ci parlava di nevicate, insomma c'è un'allerta per neve, un'allerta di livello 1, è la più alta quella di livello 1, no? Sì, questo è quello che riguarda poi la giornata di domani, soprattutto nel corso della giornata, cioè quello che oggi riguarda le generali ampie schierite al centro-nord, è un ammiglioramento solo momentaneo, perché appunto nel corso della giornata di domani, già in mattinata la Sardegna, nel corso del pomeriggio e ancor più della serata, i versanti tirrenici del centro, compresa la Campania, ma soprattutto poi Lazio, Umbria, Toscana e il nord-ovest, quindi anche la Liguria che lei citava, interessate da nuove precipitazioni che si faranno col passare delle ore via via più diffuse, la neve al nord-ovest a quote inizialmente collinari 300-500 metri, ma in serata in calo a quote anche di pianura sul Piemonte, e la Liguria potrà vedere anche lo sconfinamento verso le coste delle nevicate, che comunque saranno abbondanti a quote di bassa collina. Ecco, per le prossime ore, quali, in che zone, come dire, si concentrano i timori, soprattutto guardando, perché insomma noi non è che come dire, in questa sede ne parliamo per dirvi che piove, ma perché ci interessa da un punto di vista del rischio idrogeologico. Quali sono le zone alle quali dobbiamo fare attenzione, Thierry? Se parliamo delle prossime ore, quindi la giornata di oggi, parliamo solo del meridione, in particolare dei versanti tirrenici del meridione, ripeto, sia peninsulari che della Sicilia. Per il resto la giornata di oggi al centro-nord e comunque anche sul resto del meridione, seppur su queste ultime zone con maggiore nuvolosità, avete condizioni di tempo più stabile. Chiaramente nel corso della notte, con il cielo sereno, attenzione alle gelate nelle zone soprattutto che sono state interessate dalle varie grandinate e nevicate della notte scorsa. Però insomma sono situazioni in cui la giornata odierna vede un miglioramento, mentre se parliamo della giornata di domani, attenzione di nuovo sulla Sardegna, qui soprattutto per piogge, le nevicate sulla Sardegna oggi erano a quote collinari ma domani andranno rialzandosi, dal pomeriggio serata su tutte le regioni tirreniche del centro e su quelle settentrionali, su queste ultime ripeto per neve che tornerà a quote molto basse, anche se sarà poi la giornata di mercoledì quella interessata da nevicate anche abbondanti e diffusamente di pianura su gran parte del nord Italia. Il sindaco di Petilia Policastro, si diceva, in provincia di Crotone, si chiama Amedeo Nicolazzi, è naturalmente preoccupato per i suoi concittadini, ci dice che potrebbero arrivare a sgomberare altre 200 persone per una frana che minaccia il paese, ma soprattutto ci dà un quadro della situazione proprio nel suo paese, è un paese di circa 9.000 anime, appunto in provincia di Crotone, che è veramente particolare. Dice, ovunque io arrivi a tappare un buco, quel buco comunque si ricrea. Sentiamo il suo racconto. È un disastro, non è un mezzo disastro, perché adesso questo disastro si è concentrato su una frazione a valle della città di Petilia, dove ha provocato e sta provocando numerose problematiche. Però io sono sindaco di una città che è una groviera. Io mi si aprono voragini in continuazione nel centro abitato, e la cosa che più mi preoccupa è che quando vai a cercare di riempire quella voragine non riesci a riempirla. Puoi mettere 1, 10, 20 camion di sabbia. E perché non riesci a riempirla? Perché il sottosuolo sembra una groviera. Poi alla fine si opta per mettere dei coperchi su queste buche che si aprono. Cioè, lei mi sta dicendo, sindaco, che è impossibile vivere a Petilia Policastro, cioè andrebbe spostato tutto il paese. Andrebbe monitorizzato bene dalla Protezione Civile. Se lei mi dice nel momento nel quale, anche se uno riesce a monitorare la situazione di Petilia Policastro, se mi dice che nel momento nel quale prova a tappare il buco e questo non serve, vuol dire che c'è un pezzo della comunità che andrebbe spostato. No, vi spiego subito. Non ci sono le raccolte di acqua. Allora, tutte le acque si infiltrano a monte della città e fanno dei canaloni. Allora, quando si fanno delle frane sotto il sottosuolo, non si riescono a tappare. Non è facile tapparle. E quindi andrebbero fatti dei lavori a monte, sta dicendo lei. Esattamente, andrebbero fatte le raccolte delle acque che io non so. Io non è che voglio dare la colpa allo Stato, per l'amor di Dio, lo Stato no, manca la regione, nessuno. Abbiamo anche delle colpe noi petilini, sì. Perché siamo stati da sempre senza piano regolatore. Il primo piano regolatore approvato a Petilia è stato il 2007. Si immagini, prima ognuno faceva quello che voleva. Naturalmente. E allora immagino che questo non si sono cimentate le acque, non si sono controllate le fogne, non si sono controllati gli acquedotti. Adesso si sta cercando, ma i danni sono fatti e allora bisogna riparare in qualche maniera. Senta una cosa, sindaco. Sì. Intanto mi dà anche un aggiornamento su com'è la situazione adesso, perché oggi è bel tempo, è uscito un po' il tempo da un paio di ore. Però c'è una frana che minaccia alcune case, ho capito bene? Sì, c'è una frana che minaccia non alcune case, tantissime case. Ho dovuto emettere ordinanze, ho sgomberato 31 persone dalla loro abitazione, purtroppo. Devo ringraziare i petilini che sono solidali e li hanno ospitati, ma ho dovuto sgombrare quasi 12-13 famiglie. Ma la cosa più grave è che se non si ferma la frana, che è molto vasta, io dovrò sgombrare altre 200 persone e allora io vado in difficoltà. Comunque io avevo lanciato degli appelli che ripeto anche qui da voi, sembra che l'abbiano accolti, perché sono stato chiamato a Palazzo Chigi per mercoledì alle 14 per avere più un appoggio dello Stato, per avere una prontezza, per vedere cosa fare, perché non posso essere lasciato in queste condizioni, perché sennò io ho detto, e lo ripeto anche a voi, io non vorrò essere accusato per omicidio colposo, perché se succede qualcosa a un mio concittadino io me ne sento responsabile. Allora, se lo Stato non interviene, come mi sta dimostrando in questo momento, devo dire, io preferisco dimettermi. Siamo quasi in chiusura, vi voglio naturalmente portare sullo sport all'indomani della giornata di campionato, lo facciamo sempre, un punto con il nostro Carlo Genta, che non può che partire dal disastro dell'Inter. L'Inter un disastro in buona compagnia, perché anche la Lazio non se la passa meglio. È stata la domenica in cui molte hanno dormito o sono svenute, come la Sampdoria a Torino, che ha preso una lezione storica, almeno per questo campionato. La Juventus ha giocato grosso modo a Udine sul vantaggio, sul pareggio della Roma, non ha sofferto molto, aveva diversi problemi di formazione, soprattutto si è riposata, diciamo. Diciamo che sta cominciando la sensazione che stia cominciando a gestire un vantaggio di 7 punti che, viste le condizioni della Roma, comincia ad essere rassicurante. Oggi è anche l'ultimo giorno di mercato, ci sono un sacco di trattative, un sacco di movimenti. Ad esempio il Milan ha preso Paletta ieri sera, che non è neanche tornato a Parma con i suoi, si è fermato direttamente a Milano. L'Inter ha ripreso Santon, la Juventus sta chiudendo con Matri, punta di scorta, è ufficiale, Giovinco va subito a Toronto. Dunque ci sono queste storie che si intrecciano, storie di campionato che ci consegnano una classifica nella quale sono il Napoli può sorridere, eventualmente se vogliamo pure il Milan che ha giocato abbastanza male con il Parma, ma almeno si è beccato questi tre punti, tutte le altre a partire dall'Inter, disastrosa contro il Sassuolo, grande Sassuolo, ma disastrosa l'Inter, tutte le altre piangono. Infine vogliamo parlarvi di arte. Di arte, se consentite, come fenomeno sociale, nel senso che nella giornata di ieri, nell'ultimo giorno di apertura della mostra di Chagall a Milano, organizzata tra l'altro da 24 Ore Cultura, ebbene, in quest'ultimo giorno di mostra ci sono state file che sono durate, cioè gente che è stata in fila addirittura 8 ore, con il freddo che c'era naturalmente a Milano, orario della mostra prolungata, l'apertura fino a mezzanotte. Nel complesso ci sono stati, nel periodo nel quale la mostra è stata aperta, 340.000 visitatori, la mostra più vista del 2014, un record quello della mostra di Chagall, battuto solo dall'esposizione su Picasso di 3 anni fa, che staccò oltre 500.000 di biglietti. Da cosa dipende questa passione, e in particolare per un artista come Chagall? La nostra Adriana Fracchia lo ha chiesto a Filippo Daverio. Dipende da tre cose. La prima, che la gente ama andare nei musei, cosa che non ci si pensa mai, si pensa poco al ministero, però la gente piace proprio andare a vedere le mostre. È una roba informativa, andare a vedere le mostre è carino perché si fa con gli amici, non si deve fare da solo, bla bla, mille motivi. Questo è il primo motivo. Secondo me, che in questo periodo dell'anno è un periodo dove, siccome se non si va via per i weekend, si sta in città, il più vicino possibile in città, quindi è più facile che si vada. Terzo motivo sono proprio i nomi, cioè Marc Chagall piace perché è una roba che, se uno non l'ha visto, deve aver visto. Piace, un nome noto, è facile da capire, come dicono i bambini, è bello ed è colorato. In fondo il quadro preferito del Papa attuale era una crocifisso di Chagall. In questo momento credo che sia corrisponda anche a una sensibilità in corso. La sensazione che in un momento di forte tensione mondiale una risposta come quella di Chagall, che passa attraverso l'interreligiosità per arrivare fino in fondo al fiore basso di Fiorellino con l'angelino che li vola sopra, cioè è un sedativo a un certo punto, inizialmente è un provocativo, dopo diventa un sedativo, ci fa piacere, è percepito come una cosa che fa parte della quotidianità, che in Italia manca. Non avendo i musei di arte moderna, perché abbiamo fatto delle altre cose, non avendoli, per fortuna facciamo le mostre, non le mostre suppliscono dalla mancanza del museo di arte moderna. Quando ci sono, uno va a vederle, siccome Chagall è tanto tempo che non si faceva vedere, ed è il momento anche in cui questo messaggio così, diciamo, non bonario, buono, diventa un messaggio importante, credo che il successo sia automatico. Ecco, quindi questo spiega anche ore di coda al freddo. Certo, poi è bello stare insieme, è bello andare alle mostre in gruppo, uno va sta al freddo oppure a pioggia e ha la sensazione che appartiene a un mondo, cioè è un mondo per sentirsi parte della società. La coda è la parte più bella delle mostre. La nostra società ha bisogno di momenti nei quali uno si ritrova, cioè uno fa di nuovo coralità, e che tra l'altro era la grande tradizione, curiosamente invernale, no? È un modo ritmico naturale dell'esistenza della comunità umana. Stiamo riscoprendo. Ed è tutto anche per oggi per il podcast di Effetto Giorno. Se avete dubbi, perplessità, naturalmente critiche, che sono sempre benvenute perché ci permettono di migliorare, l'email è effettogiorno@radio24.it, c'è il mio account Twitter, Simone Spezia, oppure c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Buona giornata a tutti.